Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi partiamo dal dato confortante che stiamo registrando in questi giorni, e cioè che la curva che ha raggiunto il plateau ha iniziato la propria discesa. Questo è uno straordinario risultato che però gli esperti sottolineano è un risultato che va conquistato ogni giorno, e quindi per farlo è fondamentale che ciascuno di noi continui a dare il proprio contributo. Ieri ho letto un'intervista del professor Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, al Messaggero, che ha paragonato i risultati che stiamo ottenendo a quelli di un ragazzino che inizia a studiare e ottiene buoni voti. E questo naturalmente dovrebbe spingerlo non a chiudere i libri, ma ad applicarsi con maggiore impegno. E quindi lo stesso dobbiamo fare noi. Ci sono dei segnali che proprio come i buoni voti ci aiutano ad andare avanti con il nostro impegno, e quindi avanti tutta. Uno di questi segnali che più ci rincuora è che sta calando la pressione nelle terapie intensive. In linea con noi abbiamo il dottor Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area Critica dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dottor Lorini, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Dottor Lorini, diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive e noi tutti leggiamo questo dato come un segnale positivo, ma ci aiuti ad andare oltre al numero. Quali sono i fattori che hanno contribuito a raggiungere questo risultato, e soprattutto che cosa è opportuno fare o evitare perché questo trend si consolidi? Guardi, è abbastanza semplice. Bisogna capire perché le terapie intensive sono andate over pressure, come diciamo noi. Il dato è molto semplice, perché il numero di pazienti che si ammalava e che stava male, che giungeva in pronto soccorso, era, per esempio in un ospedale come il mio, era di circa 80 al giorno. Di questi 80, circa 60-65 venivano ricoverati in ospedale perché respiravano molto male. Una fetta, che è l'8% di questi pazienti, aveva bisogno di terapia intensiva. Ora, evidentemente è successo questo, che gli italiani hanno ascoltato molto bene quello che gli è stato detto, sono stati a casa, nessuno incontri nessuno, e sono cominciati ad arrivare non 70-80 pazienti in pronto soccorso ogni giorno, ma 30. Quindi il numero di pazienti che abbiamo dovuto ricoverare nelle terapie intensive da 8 al giorno o 9 al giorno è diventato di 2 o 3. Essendo che ormai da un mese siamo aperti e che quindi 4-5 pazienti guariscono, quindi noi ne guariamo 4-5 ogni giorno e ne riassorbiamo 2 o 3. Questo è il motivo per cui le terapie intensive cominciano ad essere un po' meno sotto pressione. Dottor Lorini, nessuno incontri nessuno, è una formula che lei ha lanciato in diverse interviste che mi piace, che ho adottato anch'io. Nessuno incontri nessuno, a sottolineare quanto sia importante mantenere il distanziamento sociale ed essere responsabile nel comportamento di ogni giorno. Dottore, si usano dati, grafici e proiezioni? Sapete perché ho dovuto modificare il rispetto a restate tutte a casa, nessuno incontri nessuno? Perché mi sono accorto dal racconto di un amico della valle, il quale mi diceva che cos'era successo, ed era successa questa cosa qua, e quindi io ho capito che la gente non aveva capito, perché i numeri non scendevano così come noi ci saremmo aspettati nelle prime settimane, c'era qualcosa che non andava, e quello che non andava era questo. E vi racconto l'esempio che lui mi ha fatto. Lui, questo mio amico, era figlio di papà e mamma che avevano il Covid, e lui ovviamente ha obbedito a quello che gli abbiamo detto, stava a casa, certo, ma andava a fare da mangiare, a fare le pulizie a casa di questi genitori. È tornato a casa sua e dopo 2 o 3 giorni la moglie, che viveva con lui, si è ammalata di Covid. La moglie andava a fare la stessa cosa dei suoi genitori che non stavano bene. Quindi da questo vettore, che ufficialmente stava a casa sua e andava solo dai suoi genitori, sono partite almeno 10 persone, e lì ho capito che il restate a casa non era stato capito bene. Molto meglio è nessuno incontri nessuno, che invece ha cominciato a dare i suoi risultati. Dottor Lorini, Si usano dati, grafici, proiezioni per inquadrare e monitorare la situazione, ma oltre a questi strumenti di verifica, che cosa le ha fatto capire che qualcosa stava cambiando, dottor Lorini? Noi guardiamo i numeri, che sono estremamente importanti. I dottori lavorano molto spesso con i numeri. Quando noi dobbiamo guarire un paziente critico, le prime cose che vediamo sono i numeri che erano con gli asterischini, che voi normalmente la gente vede l'asterischino, che tornano senza asterisco. Quindi noi siamo abituati a lavorare con i numeri. Noi lavoriamo su due numeri molto solidi, che anticipano di qualche giorno quello che si vede la sera alla televisione con Morelli, eccetera, eccetera, eccetera, che sono il numero di pazienti che arrivano in pronto soccorso nella giornata, che dice esattamente quante persone si ammalano nella popolazione che sta intorno a noi, e questo ci dice quanto sta scendendo il contagio. Il secondo numero veramente solido, che è quello che vedremo, mi auguro, calare in maniera importante, che ci dirà che la popolazione si sta ammalando di meno, è il numero di morti. Allora, questi due numeri sono due numeri solidi che ci dicono che le manovre contentive che sono state fatte stanno portando i loro risultati. Cosa che sta succedendo? Noi siamo molto sereni che se, come diceva il professor Locatelli, la gente farà quello che gli abbiamo chiesto, noi vinceremo questa battaglia. La preoccupazione è che non tutti hanno capito bene questa cosa qua. In alcune aree dell'Italia questa cosa sembra molto lontana, e noi non vogliamo vedere nel sud lo stesso numero di morti che abbiamo visto qua noi, perché sarebbe una cosa terribile. Ma sembra che il sud abbia imparato e preso appunti dalla situazione del nord, che tenga, professore, dottore Lorini. Ho paura che in alcune aree dell'Italia succede esattamente come quando noi da qua guardavamo la Cina, che la pensavamo lontanissima, e vedevamo alla sera questa cosa che succedeva in Cina e ci sembrava un racconto strano. Ecco, vedendo alcune immagini di alcune città del sud, io ho la sensazione che loro abbiano visto quello che gli abbiamo detto, ma che lo percepiscono ancora come un po' lontano, e che pensino che la buriana, per il fatto che sia passata qua, passerà anche da loro. Non è così. Se loro sbagliano, arriverà la buriana che abbiamo avuto noi. Quindi, dottor Lorini, lancio un appello. Quello che noi vedevamo come Cina, adesso al sud possono vedere la situazione della Lombardia, Bergamo, Brescia, le zone che sono state duramente colpite dal Covid. Un messaggio, oltre a nessuno incontri nessuno? Il messaggio è di considerare questa esperienza che abbiamo fatto, terribile, questa dura lex che questo piccolo microorganismo ci ha dato, come qualcosa che loro devono temere, e non devono pensare che il fatto che noi stiamo un pochettino andando meglio, anche loro andranno meglio. Loro non l'hanno ancora avuta questa immunità, potrebbe essere che noi andiamo meglio perché tante persone si sono ammalate, cominciano ad essere immuni, tante sono morte, ma questo non è successo giù e non deve succedere. Devono rimanere ancora molto molto preoccupati di questa situoione, perché guardate, non c'è nessuna terapia così efficace come il nessuno incontri nessuno. Noi non abbiamo un farmaco, abbiamo solo questo atteggiamento. Nessuno incontri nessuno. Incontriamoci però sempre, Obiettivo Salute, con voi, insieme ai nostri esperti. Dottor Lorini, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro un buon lavoro, grazie. Buona giornata. Grazie, dottor Lorini. Noi da Bergamo ci spostiamo a Brescia, ad attenderci c'è il dottor Renzo Rozzini, che è direttore del Dipartimento Medico dell'ospedale Poliambulanza di Brescia e specialista nei problemi dell'invecchiamento. Dottor Rozzini, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Anche lei ci conferma che qualcosa è cambiato e sta cambiando negli ospedali che sono stati chiamati a fronteggiare gli attacchi di questo virus che ha cambiato tutte le nostre vite. Lei che notizie ci porta? Brescia, tra l'altro, come Bergamo, è stata profondamente segnata dal Covid. Le notizie che vi do sono esattamente quelle che diceva prima il dottor Lorini, vale a dire il numero degli accessi al pronto soccorso si è ridotto di molto. Il numero di richieste di ricovero nelle corsie, non solo nelle unità di cura intensive, ma nelle corsie che rappresentano il luogo dove con maggior posti letto dove vengono ricoverati i pazienti. Teniamo conto che i pazienti più gravi vanno in unità di cura intensiva, ma il 95% delle persone che vanno in pronto soccorso poi finiscono nei cosiddetti reparti Covid, che sono i reparti che si sono convertiti per la cura, certo, di queste persone. Noi abbiamo cominciato a chiudere, a sanificare alcuni reparti con cautela, ma da una settimana questo sta succedendo, perché il numero di eccessi non richiede più una quantità di letti comuni. Ecco, e questo vogliamo raccontarlo, è un buon segnale. Ma sì, dottor Rozzini, sì, il Covid è una malattia che costringe tutti a fare i conti con la solitudine. Questo è un problema ancora più grave per chi è ricoverato in ospedale. Riflettevo proprio che questa malattia, che essendo infettiva impone distanze, barriere, protezioni, insegna e sottolinea quanto la cura sia effettivamente un prendersi cura nel senso proprio pieno del termine. È d'accordo? Ma sì, sono d'accordissimo. Allora, teniamo conto che comunque l'ospedale è un luogo di potenziale solitudine, nel senso che le persone sono lasciate con la loro fragilità, anche in condizioni non in assenza di epidemia, di pandemia, lontano dagli affetti, lontano dalla casa, i medici e gli infermieri se ne prendono cura, ma comunque c'è sempre questa variabile malattia che è in grado di minare un po' le sicurezze della persona, quindi la solitudine. E poi teniamo conto di un altro aspetto, che comunque le solitudini sono sempre state. 2 mesi fa si parlava di solitudine, 1 anno fa si parlava di solitudine, quindi solitudine è un problema che c'è sempre stato ed era molto rilevante. Adesso è diventato particolarmente rilevante, perché anche quelle poche possibilità che prima esistevano, che i familiari venissero in ospedale, si sono ampiamente ridotte. E inoltre le informazioni che i pazienti hanno all'ospedale vengono dalla televisione, che in questi giorni o dalla radio o dai social, che non sono stati sicuramente rassicuranti. Quindi questo aspetto della fragilità di fronte a un qualcosa che non è governabile certamente ha amplificato i problemi del sentirsi soli, ecco. Dottor Rozzini, allora, ci fermiamo per dare la linea. Dottore, scusi, ci dobbiamo fermare per dare la linea alle informazioni sul traffico. Ritorniamo subito dopo insieme, e lei è uno specialista nei problemi dell'invecchiamento, vorrei chiederle anche qualche consiglio pratico, quotidiano per i nostri anziani. A tra poco. Obiettivo salute. Siamo tornati, in linea con noi c'è il dottor Renzo Rozzini, direttore del Dipartimento Medico dell'ospedale Poliambulanza di Brescia, specialista nei problemi dell'invecchiamento, con cui stavamo valutando il peso doloroso della solitudine per le persone malate, ricoverate, ma anche solitudine anche nelle nostre case. Ma voglio ringraziare e salutare Peter Bescapè in regia, la parte tecnica, la squadra, Giorgio De Luca in assistenza e Laura Vanossi in redazione. Dottor Rozzini, con la solitudine, lei diceva, ci abbiamo fatto i conti da sempre, ma in questo momento pesa ancora di più, e quindi immagino che e so che anche negli ospedali si sono organizzate degli approcci, delle strategie per far sentire anche meno soli sia i familiari sia i pazienti ricoverati, sempre nel rispetto naturalmente delle attenzioni che una malattia infettiva come il Covid impone. Sì, allora il discorso vale sia in ospedale ma anche fuori. Allora in ospedale bisogna curare e rassicurare, che è un punto centrale, nel senso che una persona, come dicevo prima, della fragilità ha meno capacità di valutare come stanno realmente le cose, quindi il medico ha questo compito, quello di erogare le cure migliori per quella condizione clinica, ma anche di trasferire un senso di sicurezza che le cose stanno andando nel verso giusto, quantomeno stanno andando in modo ragionevole, cioè che tutto è controllato. Dottor Rozzini, cito il titolo di un libro di Benedetti: La speranza è un farmaco. Sì, le parole curano. E la porto a casa, dottor Rozzini, perché anche molti anziani, anche che vivono con noi nelle nostre famiglie, si sentono e sono fragili, vanno rassicurati e protetti. Mi dà 2 indicazioni da portare nelle nostre case, nella nostra quotidianità? Allora, se faccio riferimento alle persone di 75-80 anni, la prima cosa è che devono telefonare, non aspettare di ricevere telefonare. in condizioni di difficoltà si sviluppano delle idee patologiche per cui le persone si autosvalutano e pensano che gli altri non li vogliono chiamare. Allora, ribaltiamo il problema. Una persona deve fare 5 telefonate al giorno alle persone che conosce. Non devono aspettare le telefonate dai figli, ma devono chiamare i figli, chiamare i nipoti. Questo è il punto primo, che Uno. Penso sia il più importante. Importantissimo. L'altro aspetto è quello della, ovviamente, delle regole che prima si mantenevano, vale a dire, anche se se non si può uscire, i pasti devono essere regolari, tutte, cioè le cose, un'igiene, diciamo, di uno stile di vita, un'igiene di vita, come in precedenza deve essere fatto. Ma un terzo punto che è ancora importante, sono sempre le solite cose che diciamo noi, è quello del movimento. Allora non si può andare al passo, si deve stare in casa. Bisogna darsi delle regole che siano scandite, come lo è l'assunzione delle medicine. Allora, un esempio, una regola che potrei dare qui è quella di fare gli esercizi, di alzarsi dalla sedia a braccia conserte. Ogni ora, alle 9, alle 10, alle 11, a mezzogiorno, all'1 e così via, si siede, si può fare anche in compagnia, marito e moglie o chi c'è in casa, e mette certo. Le braccia conserte e si alza 5 volte, poi riposa, fa 5 volte, poi riposa 5 volte, fa una serie di 3 e poi fa un giro per la casa. E questo potrebbe già essere un qualcosa che riduce il disuso legato al fatto che non dobbiamo incontrare nessuno, che dobbiamo stare a casa. Se quindi uno facesse questo, 5 telefonate e alzarsi per 5 volte dalla sedia, per 3 volte consecutive, ad ogni ora potrebbe essere già una terapia che può funzionare, che funziona anzi. Che funziona. Dottor Rozzini, grazie, ci sentiamo presto, buon lavoro, grazie per essere stato con noi anche per questi consigli. Io resto a casa con il mago e questa è una buona idea che sicuramente piace, piacerà a grandi e piccini, a nonni, abbiamo parlato di anziani e nipoti, c'è una bella iniziativa che voglio farvi conoscere, per questo ho invitato il dottor Carlo Alfredo Clerici, che è un medico, psicologo clinico e ricercatore all'Università di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ci racconti? Eccoci. Io resto a casa col mago, anzi con i maghi. Chi sono questi maghi? I maghi sono è un'iniziativa che nasce da un gruppo, il Centro di Formazione Magica di Milano, professionisti, semiprofessionisti, amatori, dilettanti, chiunque trova conforto, piacere, divertimento nello stupire gli altri. E di fronte a una situazione così nuova e imprevista è venuta l'idea che la magia possa dare un contributo anche alle persone che sono a casa e hanno il problema di combattere contro tristezza, noia e preoccupazione. Dove vi cerchiamo? Come possiamo metterci in contatto con i maghi per assistere ad uno spettacolo, per alimentare e nutrire la nostra fantasia, per andare altrove? E questo, ci sono anche delle ricerche molto interessanti, dottor Clerici, vengo a lei, lei è uno psicologo clinico, che sottolineano quanto sia importante nutrire e alimentare la fantasia, specie in momenti un po' difficili come quello che stiamo vivendo ora. Sì, l'iniziativa consiste in una pagina Facebook che si chiama Magia Contro Virus, c'è anche una pagina Instagram, sempre Magia Contro Virus, perché i più giovani hanno più dimestichezza nell'usare Instagram. La magia sì. È usata in ambito clinico, terapeutico da molto tempo, naturalmente occorre una formazione su questo, bisogna essere appassionati e un po' maneggiare certo. La magia, ma è di grande aiuto nella relazione con i bambini malati, nella riabilitazione, perché ci si è accorti che unire stupore alla pratica clinica permette di ottenere qualche effetto in più dal punto di vista della relazione, partendo anche dalla regola psicologica per cui se c'è un'emozione difficilmente ce n'è contemporaneamente un'altra, per cui se noi produciamo stupore, la preoccupazione, la tristezza, lo sconforto vengono almeno momentaneamente accantonati. Dottor Clerici, la prossima volta che lei verrà a trovarci, mi svelerà se lei è anche un po' mago, oltre a psicologo clinico. Mi sono interessato, appassionato, ho fatto qualche corso, sono un mago di non grande livello, ma proprio partendo dall'esperienza clinica, per cui mi serviva uno strumento per poter essere in relazione con i bambini. Allora la invito per una prossima volta per raccontarci anche questo, l'utilizzo anche della magia che può anche aiutare a curare meglio, ad avvicinarci. Grazie al dottor Clerici, vado di corsa in cucina dove ci aspetta il nostro medicuoco quasi cuoco, il dottor Stefano Arzegovesi, direttore del centro disturbi alimentari dell'ospedale San Raffaele di Milano, che ci porta in cucina. Dottor Arzegovesi, in 30 secondi lei deve fare una magia. Buongiorno Nicoletta, 30 secondi la magia della pentola a pressione. Oggi nel nostro spazio cotture, esploriamo le cotture in cucina, parliamo di una tecnica importantissima che spesso ci mette in una condizione un po' di timore reverenziale, oddio cosa fa la scoppia, mi scotto. Bravo, altro. Sì, Assolutamente, usiamo le pentole a pressione moderne che sono sicurissime con almeno 3 sistemi di sicurezza per il vapore, usiamole tantissimo perché è un modo eccezionalmente semplice per beneficiare al massimo della fibra dei cereali e dei legumi che cotti in pentola aperta, se non li cuociamo molto a lungo facilmente hanno fibre che ci gonfiano la pancia, che non sono piacevoli al palato. Escono invece questi stessi cereali e legumi dalla pentola a pressione in una forma morbida, piacevole al palato e molto salutare per i nostri batteri intestinali di cui ci curiamo particolarmente. Dottor Arzegovesi, il nostro medicuoco quasi cuoco, è anche lui un mago. In 30 secondi è riuscito a raccontarci e a invogliarci ad andare sulla pagina di Obiettivo Salute per la ricetta. Io vi aspetto domani. Buona giornata e grazie a voi.